faccio a spiegarti certe cose che ho detto. Semplice non lo faccio, tanto non mi riprendo. Se continuo a fumare, se continuo a sognare, un pochino di silenzio per poter riposare. Iperrealistico, soffro davvero lo sai. Super fantastico, come me tu non lo sarai mai.